Mix 24 di Giovanni Minoli. È arrivata una telefonata da mio figlio che mi dice: mamma, sono venuti i servizi sociali, stanno a portare via i bambini, che devo fare? Sta calmo, sta buono, non si vedrà. Luglio 2012, una segnalazione, l'intervento dei servizi sociali e due bambini di 6 e 3 anni vengono trasferiti in casa famiglia. L'ambiente familiare non è più idoneo alla loro crescita. Litigavano tra moglie e marito, litigavano perché non c'erano i soldi, perché aveva chiuso l'officina. Suo figlio fa il meccanico. Mio figlio c'aveva un'officina che lavorava giorno e notte, quindi ha sempre lavorato. Suo figlio non ha provato ad opporsi, a dire c'è mia madre. Come si potevano opporre? Non gli hanno manco mica detto mandiamoli da nonna. Lei poi ha chiesto l'affido dei suoi nipoti. Io ho fatto la domanda, non ci ho risposto ancora. A chi? Direttamente al tribunale. La domanda è rimasta là. 4 anni e non è mai stata chiamata, ascoltata dal tribunale. Io mai. Ogni quanto lei vede i suoi nipoti? Una volta al mese. Per quanto tempo? Un'ora. Un'ora d'orologio. Ringraziando Dio ci stanno gli altri nipoti che mi confortano, però quelli mi mancano. Quelli mi mancano più dell'altro, più di tutti Valerio. Perché? Valerio è l'angoscia, perché Valeria, essendo cresciuta là dentro a 3 anni, lei è inserita lì in quel metodo, in quel sistema. Non l'ha vissuta la casa, era troppo piccola. Mentre invece Valerio soffre, soffre e soffre. Cosa le dice? Prima di Natale mi ha detto: nonna, oggi sono tanto triste. Che gli dico io? Anche io posso dire domani ti vengo a trovare. Signora Bisegna, come presidente dell'associazione Nonni Penalizzati dalle Separazioni, la storia di questa nonna è un'eccezione o i bambini vengono spesso affidati a strutture esterne invece che ai nonni? Vanno subito alle strutture esterne. Non è che gli assistenti sociali vanno dai nonni e dicono: fammi vedere questo nonno se è all'altezza oppure se ha la possibilità con la pensione di dare un aiuto. Non lo fanno, loro dicono che il bambino deve essere allontanato per il bene del bambino. Senza fare verifiche. Non le fanno le verifiche, perché tutti i nonni che io ho incontrato non hanno fatto verifiche. Signora Carla, lei quanto prende di pensione? 1.350 euro al mese, 23.000 euro. E la sua casa quanto è grande? 100 metri quadri, 5 camere. Una cucina e 2 bagni, un balcone, una cantina. Quindi c'erano spazio e disponibilità? Ci hanno vissuto sempre, tutti quanti. In che senso hanno vissuto da lei? Valerio è nato a casa mia, poi hanno cambiato casa, però la vita l'hanno passata a casa mia, con la residenza. E questo lo ha fatto presente ai servizi sociali, al tribunale, a qualcuno? Io ho portato all'avvocato i documenti che ho, la casa di proprietà, che c'è un pezzo di terra, che ho la pensione, basta che tornino in famiglia. Signora Bisegna, su 10 nonni, quanti ottengono l'affidamento dei nipoti? Ma su 10 saranno 2, perché lottano, fanno tanto rumore e allora ce la mettono tutta e riescono a prendere, ma gli altri no. L'ipotesi nonno, famiglia, zii non viene presa? No, no. Il ramo parentale è proprio dimenticato perché non è una cultura. Nonni che lottano per avere l'affido dei nipoti, spesso gli stessi che hanno aiutato e cresciuto. In Italia i nonni costituiscono il più efficiente fra i welfare. Quando mancano asili e servizi per la prima infanzia, invece delle babysitter, per 7 milioni di bambini ci sono i nonni. E sono 40 miliardi che ogni anno, dalla pensione di 10 milioni di nonni, passano a figli e nipoti per bollette, affitti, spese alimentari, studi e mutui. Eppure servizi sociali e tribunali spesso non ritengono idonei i nonni per l'affido dei minori. Ma che cosa dice la legge sull'affido? La prima legge è del 1983, rinnovata nel 2001, ma il principio non cambia. Ogni minore ha il diritto di crescere nella propria famiglia e lo Stato deve sostenere economicamente le famiglie a rischio per evitare abbandoni e separazioni. In Italia sono oltre 30.000 i minori in affidamento, un numero fra i più alti d'Europa, 7.000 in Francia, 8.000 in Germania. Un numero di cui si sa poco. Non esiste un registro nazionale degli affidamenti. Dati e informazioni sono confusi ed incompleti, solo stime approssimative. Domanda: perché un minore viene allontanato dalla sua famiglia? Ultima indagine, quaderno della ricerca sociale 2012, dati 2010. Il 9% dei minori è in affidamento per maltrattamenti, violenze e abusi, il 30% per droga, problemi sanitari e perdita del lavoro di uno o entrambi i genitori, il 50% per povertà economica o abitativa. Migliaia di famiglie ogni anno, ancora oggi, si vedono allontanare i figli per povertà. Per legge, lo Stato avrebbe il dovere di sostenere economicamente le famiglie a rischio. Cristina Riccardi, Associazione Amici dei Bambini. Oggi, forse per mancanza di risorse, forse per cultura, assistiamo sempre troppo spesso all'atteggiamento opposto. Sono dati che da una parte scandalizzano, ma soprattutto ci preoccupano, perché noi non sappiamo dove sono i nostri figli. Per legge, un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia, meglio se con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive di cui ha bisogno. Se non è possibile, è consentito l'inserimento in una comunità familiare e, se non c'è neppure questa, in una comunità educativa, ma non i più piccoli. I bambini devono avere una famiglia, anche se non quella d'origine. Cristina Riccardi, Associazione Amici dei Bambini. E qui c'è un altro dato che ci scandalizza, perché il 64% dei bambini tra 0 e 2 anni sono in servizi residenziali in Italia. Mentre per questi bambini, fino ai 6 anni, la legge ci dice che dovrebbero stare in famiglia. Quindi questo è un dato altrettanto preoccupante. Le comunità educative, a differenza di quelle familiari, non prevedono figure di genitori. Sono gestite da educatori professionali, lavoratori come altri, con turni, ferie e trasferimenti, senza nessuna garanzia della continuità affettiva di cui i minori hanno bisogno. Una bella differenza dalla famiglia con mamma e papà. Il 60% di tutti i minori in affido, 2 su 3, vivono in una comunità educativa. Sono oltre 20.000 e per un tempo molto più lungo dei 24 mesi previsti dalla legge. Cristina Riccardi, Associazione Amici dei Bambini. La lettura dei dati data dal Ministero ci parla di affidi che durano oltre 24 mesi previsti dalla legge. Quanto di più? Bambini collocati in famiglia affidataria intorno ai 10 anni, in cui i servizi chiedono alle famiglie affidatarie di farsene carico fino alla maggiore età. E lo stesso discorso vale per le case famiglie e per le comunità educative. Sono tutti affidi che hanno una prospettiva molto lunga. In Italia il 77% dei minori, cioè oltre 20.000 bambini, sono stati allontanati dalla famiglia in situazione di emergenza. Ma per legge l'allontanamento non può essere la prima risposta dello Stato. Sono molte le segnalazioni, le denunce fatte alla Corte europea da famiglie e associazioni per i bambini. Giovanna Corsetti ha intervistato Marco Paccagnella, presidente della Federcontribuenti. Voi avete parlato di sequestri di Stato. Da cosa deriva questa posizione dura? Dopo le verifiche e i confronti con gli altri paesi della comunità europea, ci troviamo in Italia ad avere bambini detenuti 10-20 volte superiore agli altri stati, ed è per questo che noi parliamo di sequestri di Stato. Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei Minori di Roma, in pensione da qualche giorno, li accusano di sequestri di Stato. Questo dipende dalla visione che ha il cittadino comune, perché chiaramente ogni cittadino si può identificare in quella madre, in quel padre, in quello, e quindi vive l'allontanamento in modo emotivamente forte e quindi punta il dito contro il tribunale. Paccagnelli, è un problema psicologico? Sicuramente ci sono dei casi che il minore va allontanato, ma non è possibile che siano così tanti i casi, perché in molte situazioni che abbiamo visto noi, le soluzioni che si adottano in Italia non sono quelle più convenienti o migliori per il minore, ma sono quelle più convenienti per chi fa questo tipo di lavoro, di professione. In che senso dice questo? Quelle più costose, dove possono guadagnare di più facendo meno. A cosa si riferisce? Vengono finanziate delle onlus, delle associazioni, delle case famiglia, degli istituti per i minori, dove partiamo da un 25 euro al giorno a minore in Calabria, arriviamo qui nel Veneto addirittura a 200-250 euro al giorno per minore. Ma ci rendiamo conto, la comunità europea ci dice che la spesa congrua per il mantenimento di un minore sono 58 euro al giorno. Onorevole Brambilla, presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, perché in Italia si spende tanto e male? Ha sentito Federcontribuenti? Non è possibile che ci siano situazioni di questo genere e non è possibile che non si conoscano, perché queste rette, 150 euro, 200 euro, 80, 120, chi lo sa, sono purtroppo dati che non hanno un riscontro certo in report del Ministero del Lavoro e quindi sono dati molto vecchi. La Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, lei è il presidente, non ha informazioni su quanto, come e perché si spende sui minori? Tolti alle famiglie perché non ritenute idonee, loro? E questo fa parte delle richieste che io feci al governo poco tempo fa, non abbiamo nemmeno chiaro quante siano queste case famiglie oggi in Italia, quali siano i requisiti che devono avere, cioè noi non abbiamo dei numeri che ci possano descrivere il fenomeno con certezza. Paccagnella, quali sono i numeri? Noi abbiamo fatto una stima di circa 2 miliardi di euro all'anno dei contribuenti che vengono spesi per allontanare i minori. Quindi i soldi ci sono per case, famiglie e strutture di accoglienza, ma non per le famiglie in difficoltà come invece vorrebbe la legge. Sì, lo dice anche la legge. Peccato che comunque non viene adottato questo tipo di soluzione. Assolutamente non ho visto prove di questo tipo. Onorevole Brambilla, meglio soldi alle strutture che alle famiglie? Parlando di fondi pubblici, questo non va bene. I bambini magari sono stati messi in una casa famiglia dove lo Stato italiano paga magari appunto 80 euro al giorno per mantenerli, quando se non 80 euro ma anche solo la metà fosse stata data magari alla famiglia che invece aveva diritto di crescerli, avrebbe risolto il problema. Ma chi è che paga, che eroga i fondi e autorizza anche la gestione di queste case famiglia e strutture? I comuni, sono i comuni. E chi dovrebbe controllare la spesa? In realtà parte del lavoro dovrebbero svolgerlo le ASL, ma le ASL e i servizi sociali non hanno, a loro dire, risorse sufficienti né in termini economici né umane per svolgere questi controlli. Insomma, poi alla fine nei fatti succede che i controlli non vengono fatti. Presidente Paccagnella, Federcontribuenti ha denunciato assenza di controlli negli enti, ma anche conflitto di interesse nei tribunali. A cosa vi riferite? Il conflitto di interesse noi l'abbiamo trovato ed evidenziato ben bene, dove abbiamo i GOT, i giudici onorari dei tribunali dei minori, e anche i CTU, che sono i tecnici nominati dal tribunale che possono influire sul giudizio, che danno parere di affidamento nell'istituto dove stessi loro spesso e volentieri lavorano, sono all'interno del consiglio di amministrazione o all'interno della direzione dell'istituto. Cioè i consulenti del tribunale? Esatto. Cioè è come se io dicessi: questo bambino anziché a casa sua sta meglio a casa mia. Esatto, proprio questo, ma moltissimi Ogni tribunale dei minori è composto da due giudici togati e due giudici onorari, scelti tra psicologi, psichiatri e pediatri. Nel 2014 Federcontribuenti ha svolto un'indagine su 792 giudici, di cui 600 onorari, un centinaio sarebbero i casi di conflitti di interessi. Tra questi, 40 sono stati sollevati dall'incarico. Nel 2013, fino mi sembra tutto il primo semestre del 2014, sono stati adottati complessivamente una quarantina di provvedimenti di decadenza d'ufficio dall'incarico di giudice onorario per incompatibilità. Giudice Cavallo, incompatibilità e conflitto di interessi nei giudici onorari, invece di scelte a vantaggio dei minori. Però non è il solo giudice che decide sempre un collegio. Quindi la decisione è sempre di un gruppo. E questo basta a garantire buone sentenze? Ci vorrebbe un'attenzione maggiore, questo sì. Però se due minori su tre vengono affidati a comunità che costano tre volte un affido in famiglia, mi pare che la preferenza verso queste strutture, almeno tra alcuni suoi colleghi, ci sia. No. Si preferiscono perché non ci sono famiglie affidatarie, quindi nel Lazio si muove pochissimo l'affidamento. I comuni, cioè, trovano molto più facile erogare denaro piuttosto che attrezzare un servizio per informare soprattutto prima e poi formare le coppie affidatarie, perché forse l'organizzazione è più complessa, non ne sono capaci, ne sono capaci e scelgono di non farla. Questo sarebbe ancora più grave, molto grave da parte dei comuni. Sicuramente bisognerebbe fare qualcosa. Onorevole Brambilla, lei ha recentemente fatto una proposta di legge proprio per ridurre gli affidi in strutture. La legge vigente, chiariamolo, non obbliga a considerare prioritariamente il collocamento dei minori presso i parenti. La mia proposta di legge invece definisce prioritario il collocamento del minore presso i parenti entro il quarto grado ritenuti idonei e disponibili e con il quale ovviamente il minore abbia rapporti significativi. Con Giovanna Corsetti torneremo ancora su questo tema sorprendente e drammatico. Intanto, oggi, la nostra Sora Cesira si occupa d'altro. Le banche sono diventate un problema nazionale, ma ce n'è una che è un problema ancora più delle altre. E la Sora Cesira lo racconta così. Allora, bambini, tutti i cittadini della Repubblica Italiana sono uguali di fronte alla legge, capito? Poi, vabbè, insomma, un po' di elasticità. Comunque, ripetete con me. La giustizia per tutti è uguale, beh vabbè, un'eccezione vale. Se si alleviano alcune pene di persone a cui si vuol bene, specie se al governo stai. Quel tipo della banca io lo conosco già. Ma non suo papà? Sì, burlava i correntisti con scarsa pietà. Ma scusi, non è suo papà? Eh sì, quei poveracci di risparmiatori sono giù. E ci ha pensato papà? E grazie anche a lui, se non risparmiano più. Davvero? Quel tipo un po' furbetto, che affari che fa? Ma scusa, è suo papà? Sì, se bancarotta ha fatto, indagato sarà. Ma è suo papà? Sì, ma tanto in castigo mai nessuno lo metterà. Perché si salva il papà? Si salva però. No. Mi vergogno un bel po'. Adesso, come tutti i venerdì, con Alessandra Fiori, sentiamo cosa c'è da fare, vedere, sentire questo weekend. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo detti basta, io mollo tutto, me ne vado, ricomincio da un'altra parte, forse non ricomincio per niente e mi metto a vendere perline o apro un chiosco su un'isola, possibilmente semideserta. È un pensiero che magari ti inchioda al semaforo quel secondo in più, ma poi al primo clacson scatti avanti. Invece Elena ha preso un'altra strada. Nel 1995 vive a Milano con la famiglia. Con il marito Klaus ha fondato un'agenzia pubblicitaria che dopo anni di sacrifici è finalmente diventata Florida. Ma invece di comprare una casa, decidono di comprare una barca e di girarci il mondo. Liquidata l'agenzia e soprattutto messo alla luce un secondo inatteso figlio, Elena, Klaus, Nicole di 7 anni e il neonato Jonathan attraversano l'Atlantico a bordo dei loro 12 metri di paradiso. Caraibi, Polinesia, Panama, 7 anni di viaggio e di scoperte, di paure terribili e di gioie grandissime. Elena si scopre barcalinga, una madre e una moglie, un marinaio e anche una maestra alle prese con l'istruzione di sua figlia. Adesso ha raccontato tutto in un libro. Siamo liberi, 7 anni in barca e l'avventura del ritorno. Ecco, il ritorno, perché dopo tanto viaggiare, Elena decide di affrontare una nuova avventura, tornare a casa. Ed è proprio a questo punto di quello che è un diario di bordo, di famiglia, di coppia, che c'è la parte più coraggiosa del racconto e anche del viaggio. Ecco Elena. Perché ha scelto di tornare? Ho scelto di tornare perché in realtà mi rendevo conto che il mio percorso era finito. Io non sono scappata via dall'Italia, avevo una necessità che era quella di ritrovare un po' me stessa, la mia famiglia, gli affetti più importanti e molto spesso il successo è qualche cosa che cerchi di raggiungere ma poi alla fine ti rendi conto che non è la felicità. Quindi sono ritornata per riappropriarmi, diciamo così, di quello che avevo lasciato e che secondo me era incompleto. Senta, ma una frase a proposito del successo mi ha particolarmente colpito nel libro. Intuisco nei nostri simili il bisogno disperato di travestire da avventura dei fallimenti esistenziali. Questo quando l'ha capito? Fondamentalmente l'ho capito mentre ero in viaggio, cioè mi rendevo conto che moltissime persone fanno questa scelta di partire, di andarsene, ma fondamentalmente lo fanno proprio in una logica veramente di fuga, no? Di fuga dalla presa di responsabilità e di coscienza di quello che dovrebbero cambiare già a partire da quello che sono loro. Quindi, e questa era una cosa che mi ha colpito veramente molto. Alla fine della fiera trovavo gente in giro per il mondo profondamente infelice. Lei è stata lontana dal 97 al 2004. Quanto era cambiata l'Italia al ritorno? Moltissimo, moltissimo, tanto da farmi sentire, sotto certi punti di vista, una straniera nel mio paese. Qual è stata la parte più difficile del rientrare nella normalità? Una è sicuramente quella del reinserimento dei figli, che però in realtà, nonostante la difficoltà, è stata invece una cosa estremamente positiva per loro, perché comunque io ho due figli estremamente ricchi dentro, proprio per la grande avventura che hanno vissuto e la sensazione di libertà, di potersi permettere, come dire, tutto nella vita, basta, come dire, volerlo, no? L'altra cosa molto difficile è stato proprio il reinserimento all'interno del mondo del lavoro. Io nel mio libro parlo proprio di come cambiare cambiato il mondo del lavoro rispetto a quando ero partita. Quando io sono andata via mi sceglievano nel lavoro che io faccio, io sono una comunicatrice, faccio progetti di comunicazione, mi sceglievano perché ero brava e perché sceglievano me. Al ritorno invece io mi sono trovata in ballo con il problema delle gare, cioè si fanno delle gare per scegliere qual è il fornitore migliore, ma fondamentalmente i criteri sono il prezzo e sono altri, e io non mi riconoscevo più in questa cosa e facevo una fatica pazzesca. Adesso è riuscita a reinserirsi però nel suo mondo del lavoro? Io mi sono reinserita perché ho scoperto una parola bellissima che consiglierei a tutti di approfondire, che si chiama resilienza, e quindi tutte le volte che mi trovo ad affrontare un grosso ostacolo, una grossa difficoltà, io cerco di capire dove e come c'è un punto che in realtà mi torna comodo e mi torna utile in quella difficoltà, e mi concentro su quello, cioè anziché guardare le negatività guardo l'unico punto di positività. Grazie Elena Sacco, siamo liberi, 7 anni in barca e l'avventura del ritorno. Chiare lettere. I David di Donatella. Che poi sono io. Donatella, buongiorno. Io non ho paura di morire, sono già morta una volta. Donatella, ma che dice? E che ti dico? Che questa volta ti faccio un regalo assurdo, perché ti dico un film che nessuno può vedere, che non è uscito. E Donatella, ma allora scusi, ma che me lo dice a fare? Perché io adesso ti racconto Revenant. No, Revenant, che esce domani, quindi va bene, ok. Però io sono all'anteprima VIPS. Ah. E sinceramente mi sto divertendo un sacco, perché ci sono un sacco di pizzette, e anche se devi vedere questi giornalisti quanto mangiano. Ma no, Donatella, ma che dice? Sì, le cartine hanno proprio fatto accapocciate, oh. E io infatti quelle neanche le ho assaggiate. Però nel frattempo ho ritirato i gadget per gli invitati, e all'albergo ho preso un posacenere carinissimo, un po' pesante. Donatella, ma lo sai che io non credo che quello sia un gadget? Dici? Lo posso? Sì, vabbè, forse sì. Comunque, questo Revenant è molto stressante, perché è ispirato a una storia vera, hai capito? È successo davvero. E c'è questo esploratore che mentre va in giro viene attaccato da un orso e tutti lo credono morto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ha avuto degna sepoltura. E invece no, chi è? Lui è vivissimo, però è ridotto uno schifo e soffre perché fa un freddo porco e deve combatteri, e come se non bastasse viene pure tradito da un suo amico. Insomma, una vita di merda, è brutta. Brutta, bruttissima. E quindi? Sì. Quindi che? Ah, no, poi ti arrabbi sempre e dici che racconto le fini dei film. Invece, lo sai che quelli che hanno lavorato in questo film si sono arrabbiati col regista perché li faceva stare al gelo e gli hanno detto che se non metteva tipo delle stufette il film se lo faceva da solo? Senta, ma a proposito di questo, ci dice del cast? Di chi? Del cast, Donatella, sempre lì siamo, gli attori, il regista. Sì, vabbè, l'attore è Leo. Leo. Adesso pure il coso, come si chiama? Come le calze? Golden Lady. Il Golden Globe, Leonardo DiCaprio ha vinto il Golden Globe come miglior attore. Sì. Infatti sembra finalmente favorito per la corsa agli Oscar. No, non le fa le corse, perché è ingrassato tipo vacca. No. Invece all'Andrew è più secco. E allora, senta Donatella, Revenant di Alejandro González Iñárritu con Leonardo DiCaprio al cinema da domani. Vale la pena vederlo? È stressante perché è faticoso, però se vuoi io intanto ti posso prendere le pizzette rosse, come sono rimaste. No, Donatella, grazie. Le preferisci bianche, vero? Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Allora Pietrangelo, dove mi porti questa settimana? Alessandra, sai dove ti porto? No. Tra le lenzuola. Tra le lenzuola? Sì, fidati. E la musica? La musica, perché questo tiritumpettappi è perfetto per presentarti il maestro Ottavio Cappellani. Ciao Beddo. Buongiorno. Maestro sei tu. E chi non te lo dice? Buongiorno Ottavio. Buongiorno. Senti Ottavio, noi abbiamo letto sul tuo blog Sicilian Comedy di lenzuola di Rieti pagate a Catania 150.000 euro. Ma che cosa sta succedendo in Sicilia? Accade che viene finanziato dall'Europa un progetto per la cultura e l'identità siciliana, e in questo mega festival c'è un tizio di Rieti che si chiama Pino Di Buduo. Parente di Baudo? Buduo, no, non lo so, non lo so, una parente di assonanza. La specialità di questo Pino Di Buduo è coprire i monumenti con le lenzuola, cioè quello che fa Cristo da decenni, ma comunque. Lui propone e viene accettato e viene pagato 150.000 euro in un festival dell'identità culturale siciliana per coprire le nostre architetture barocche con queste lenzuola. Ma non finisce qui, sì. Perché questo tale Di Buduo convoca artiste e cantanti liriche siciliane per chiedere di esibirsi fra le lenzuola con prestazioni a titolo gratuito. Vabbè, ma cerchi di capire però, se paga tutte queste lenzuola non è che può pagare anche gli artisti. Da qualche parte bisognerà pur risparmiare. Questo è anche vero, però insomma, cosa ci azzecchi il lenzuolo di Rieti con un festival dell'identità siciliana? È tutto da scoprire. Maestro, chiedo scusa, visto e considerata che invece della cultura ci si butta sul culturale. Ora il nostro amato, meraviglioso Rosario Crocetta, governatore della regione siciliana, vuole lanciare Rosario Fiorello come ambasciatore della cultura. Tu cosa ne pensi? È stata una risposta a una domanda di Mario Barresi, bravo collega della Sicilia, che gli ha chiesto un intellettuale di riferimento siciliano. E lui ha detto, io voglio lanciare come ambasciatore della cultura Rosario Fiorello. Io quando l'ho letto ho detto, beh, finalmente Rosario Crocetta dice qualcosa di eversivo e trasversale. E poi ho letto le motivazioni. Allora, le motivazioni per cui Rosario Crocetta lancia Fiorello come intellettuale è che è bello, è in forma per i suoi 55 anni. Ha detto che lui è un intellettuale perché si tiene su, e poi ha detto una cosa che ci ha lasciato un po' così, e poi si vede che è attivo. Tre cose vere. Ma siamo in fascia protetta, adesso, non inoltriamoci. Senti, ma io devo dirle una cosa, io ho amato il suo primo romanzo, Chi è l'usciortino, anche il secondo, il prequel, Chi ha incastrato l'usciortino, ma poi nel 2012 50 sfumature di minchia. Ma come le è venuto in mente? Perché siccome era di quello che si, perché siccome essendo 50 sfumature di grigio un altro romanzo metaforico che usava tutti i trucchi dell'arte per non rendere esplicito, diciamo, l'argomento principale, io ho voluto fare questa cover up, questa è una vulgata, insomma, di quello si parlava, sì, e di quello ha parlato. Grazie Ottavio Cappellani. Grazie. Mia bella signorina che ascolti lassù, so, chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. E ora la musica con Franco Schipani. Ciao Franco. Buongiorno Alessandra. Sei stata l'ondata perfetta per infrangerti contro di me. E adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Erano alcuni tra i migliori musicisti alternativi che Torino poteva offrire. 1996, sembra ieri, Alessandra. Sembra nuova ieri. Ossessione? Ah, riconosci allora il Subsonica, che festeggiano i 20 anni di attività, pensa. Comunque, se siete a Bologna o avete voglia di andarci per qualche motivo o per un motivo specifico o perché proprio vi piacciono i Subsonica, l'appuntamento è per questa sera all'Estragon. E questo invece è Arturo Ofaril, che è nato in Messico. E da lì viene la sua anima latina, lo senti? Si questo, sente. Questo, queste sonorità da Tito Puente sotto. Insomma, il jazz arriva dalle collaborazioni con nomi di prima grandezza. Pensa che lui ha collaborato anche con Stan Getz e Count Basie. E ti ho detto tutto, cara Alessandra. Comunque, se vi piacciono questi due generi musicali, se vi piace ballare, Farid vi farà partecipare a un suo cocktail di una bellezza, ragazzi, infinita. L'appuntamento è per dopodomani, domenica 17, al Teatro Manzoni di Milano. Due appuntamenti da non mancare perché ne vale la pena. Oh mio bambino. Mi piace. E questa l'hai riconosciuta, Alessandra? La amava la mia mamma. Anche la mia? Tanto, tanto. Andavano a scuola insieme le nostre mamme? Può essere. Chiediamo. Chiediamo. Dammi il numero. Oggi chiedo. Ok. Di mamma. 368. No, ma... Comunque, la Callas era un personaggio complesso. Un musicista che ha fatto cantare gli esseri umani come nessun altro, questo Puccini, un uomo che ha saputo immaginare per tutti un mondo libero e pieno di dignità. Ecco, lui è nato in una famiglia borghese di Lucca. Giacomo Puccini ha percorso una dolorosa ma inebriante strada artistico e musicale, totalmente indipendente dai gusti dell'epoca. La storia di un uomo indipendente, quindi, e in molti sensi rivoluzionaria. Ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.